sono alcuni versi della Bibbia che vorrei leggervi, sono dei versi che forse conoscete, però forse che non avete mai visto e letto in prospettiva del Natale, della nascita di Gesù Cristo. Si trovano in Efesini al capitolo 2 e dal versetto 17 noi leggiamo queste parole: con la sua venuta, e potete leggere con me dallo schermo, con la sua venuta ha annunciato la pace. Questa è la nascita di Gesù, questo è il Natale. Lui ha annunciato la pace a voi che eravate vicini e la pace a quelli che erano lontani. Quindi dei due popoli, quasi sta facendo un esplicito riferimento al popolo di Israele che era vicino perché aveva ottenuto la legge di Mosè, e anche a coloro che erano lontani, i gentili, cioè noi che non conoscevamo Dio attraverso i profeti, attraverso i patriarchi. Dio è venuto, si è incarnato in Cristo per annunciarci pace. E non solo. Nel versetto 18 dice: perché per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo Spirito. In Cristo Gesù noi abbiamo accesso al Padre. In Cristo Gesù chiunque ha accesso al Padre. Infatti è Gesù che dice: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Per mezzo di Cristo Gesù noi abbiamo l'accesso al Padre. Ma non solo. Il versetto 19 dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questo è quello che Gesù ha fatto. Gesù è venuto, ha annunciato la pace, ha riconciliato i popoli, ci ha uniti in un'unica famiglia. E noi oggi, grazie alla venuta di Gesù Cristo, possiamo dire di essere famiglia. La Chiesa è famiglia. In virtù di quello che Gesù ha fatto, tu sei riconosciuto quale figlio di Dio. E chi ti sta a fianco, chi ti sta alla destra e alla sinistra, è tuo fratello e tua sorella. Che bella occasione per stare in famiglia allargata. Purtroppo stasera non ceneremo insieme, non abbiamo lo spazio sufficiente, non abbiamo le cartellate, non abbiamo i panzerotti, non abbiamo niente di tutto questo, però abbiamo il calore di una famiglia che si vuole bene. È vero? Siamo d'accordo su questo? E quindi vogliamo fare una cosa. Una cosa che sicuramente farà piacere a mio padre, che quale pastore storico di questa chiesa, domenica dopo domenica ce l'ha sempre fatto fare: andare e salutare qualcuno, andare e salutarci con una benedizione. Quale può essere la benedizione? La benedizione può essere ricordare al tuo fratello, alla tua sorella, che in virtù della venuta di Cristo Gesù, lui è parte della famiglia. E quindi puoi dare un benvenuto a casa, anche a chi è per la prima volta in mezzo a noi. Diamo il benvenuto, ci spostiamo. Io voglio invitare anche tutto il gruppo Lode a scendere dal palco, lasciare gli strumenti e vivere un sano momento di saluti, di abbracci, di felicitazioni e di benedizioni. Lo facciamo? C'è un altro verso che voglio leggervi. Lo sappiamo, fra due giorni è Natale e quello di stasera vuole essere una celebrazione alla nascita di Gesù Cristo. Noi crediamo in Gesù, noi crediamo che la sua nascita sia stato un evento meraviglioso che ha portato speranza e luce in questo mondo, e quindi stasera vogliamo goderci insieme una serata dove ci immergiamo nel valore e nel senso reale del Natale. Ed è per questo che voglio leggervi ancora un verso che si trova in Luca al capitolo 2, e io voglio leggervi quello che è un passaggio che sicuramente anche conoscete molto bene: è l'apparizione degli angeli ai pastori che hanno avuto per primi proprio l'annuncio della nascita di Gesù. Possiamo leggere anche questi versi insieme, proiettati sullo schermo. Luca 2, dal versetto 8, dice questo: in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, ascoltate ora quello che la parola di Dio dice che l'angelo ha annunciato ai pastori, perché questo annuncio è vero ed è valido ancora oggi. L'angelo disse, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia. La buona notizia di una grande gioia. La nascita di Gesù è sinonimo di gioia per l'umanità intera, che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Oggi è nato non un uomo qualsiasi, non solo un profeta, non solo un grande insegnante. Oggi è nato il Salvatore, l'unico Salvatore, l'unico uomo reso capace da Dio di salvare l'intera umanità. Questo è l'annuncio più grande che ci sia stato mai nella storia dell'umanità. Questo angelo ha dato la notizia più importante che sia mai stata data su questa terra. È nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Dopo l'annuncio c'è stata una festa. Dopo l'annuncio dell'angelo, altri angeli, una schiera, un esercito intero si è unito a questo angelo per dare gloria a Dio con queste parole che parlano di nuovo di pace, che parlano di nuovo di speranza. E noi stasera siamo qui per lodare insieme il Signore, per lodare e unirci ancora a quegli angeli e dire gloria a Dio, gloria a Lui per quello che ha fatto, perché c'è speranza per noi in questa vita. È per questo che io vi invito ad ascoltare questo brano che verrà cantato, ma non solo ad ascoltarlo, a lodare insieme. Loda il Signore, festeggia la sua nascita, ricordati che Lui è nato per darti speranza. Ascoltiamo insieme questo brano. Io voglio leggere con voi un altro passo, scusatemi se questa sera ho tanti versi che voglio leggervi, però la parola di Dio, la Bibbia, è davvero l'unica fonte attendibile dalla quale possiamo ricevere la rivelazione del valore di quello che Dio è per noi e fa per noi. E anche della nascita di Gesù. Se vuoi capire che senso ha, che valore ha, l'unico mezzo per comprenderlo realmente è attingendo dalla parola di Dio. E c'è questo verso in 1 Giovanni 4 che proprio lo dice con poche parole, ma con tanta chiarezza. In 1 Giovanni 4, dal versetto 7, noi leggiamo: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Punto. Questa è la storia, questa è la verità. Gesù è venuto e la sua venuta è la manifestazione più grande dell'amore di Dio per l'umanità, per ciascuno di noi. I versi vanno avanti con queste parole. Nel versetto 10 leggiamo: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E lo ripete, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La causa per la quale noi eravamo separati da Dio è stata pagata sulla croce per mezzo di Gesù Cristo, che è Dio fattosi uomo. Carissimi, aggiunge l'Apostolo Giovanni, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dio ci ha tanto amati. E il fatto che Gesù sia venuto e sia nato qui in mezzo a noi, su questa terra, è la massima manifestazione dell'amore del Padre per i suoi figli. Lo leggiamo anche in quello che è uno dei versi più conosciuti, no? Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quindi quando pensiamo alla nascita di Gesù, quando pensiamo al Natale, noi dobbiamo ricordarci necessariamente che attraverso questo segno, attraverso questa nascita, attraverso questa incarnazione di Dio nel mondo, noi abbiamo un messaggio chiaro da parte del nostro Creatore. E il messaggio è questo: che noi siamo amati. Tu sei amato, tu sei tanto amato. Tu sei amato profondamente, tu sei amato incondizionatamente. Non ha importanza quello che hai fatto, non hai fatto, quale sia il tuo percorso di vita, Dio ti ama perché tu sei una sua creatura e ti ama tanto, ed è per questo che ha mandato Gesù. Lui ti ama. E questa è una cosa che sappiamo. Del resto l'abbiamo sentita. Non credo che questo messaggio sia nuovo per nessuno di noi. Tutti noi sappiamo che Dio ci ama, e credo il 90% di noi sa che la nascita di Gesù è la manifestazione dell'amore di Dio. Il 90% di noi sa anche che Gesù è venuto per portare pace, come abbiamo letto prima, no? Come ha annunciato quell'angelo, e che è venuto per darci gioia. Queste sono tutte verità che noi conosciamo molto bene. Però un conto è conoscere queste cose, e un altro conto è sperimentarle nella nostra vita. Un conto è sapere che siamo amati da Dio, un altro conto è godere di questo amore, sperimentare l'amore di Dio e avere il cuore pieno di questo appagamento indescrivibile che solo il nostro Creatore ci può dare. Un conto è sapere che Lui è venuto per darci pace, è un altro conto è sperimentare pace nella nostra vita. Un conto è sapere che Lui è venuto affinché noi avessimo gioia, gioia piena. È un altro conto invece viverla, no? C'è questo detto che conosciamo tutti: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E di fatto la religione ci dà la conoscenza della storia. E il problema è che non possiamo però limitarci a una conoscenza. Gesù non è venuto per darci conoscenza della sua storia. Gesù non è venuto affinché noi avessimo una nuova storia da raccontarci. Gesù non è venuto per darci la possibilità una volta all'anno per festeggiare della sua venuta. Gesù non è venuto affinché noi ricordassimo la sua storia. Gesù è venuto per trasformare la nostra di storia e per darci realmente quell'amore che ci gratifica, che ci appaga totalmente, quella pace indescrivibile che, come scritto in un altro verso, sorpassa ogni intelligenza e custodisce il nostro cuore, la nostra mente, a prescindere dalle circostanze che attraversiamo. E la mia domanda a te e a me questa sera è: vivi questo amore? Stai sperimentando questo amore? Vivi nella pace? Hai pace nel cuore questa sera? Puoi dire di avere gioia, una gioia piena? Perché probabilmente se non vivi queste cose, stai vivendo una religione dove conosci la storia, ma la storia non ha un effetto nella tua quotidianità. E Gesù non vuole che noi viviamo una religione. Gesù vuole che noi viviamo una relazione con Lui. E nel momento in cui noi viviamo una relazione con Lui, Lui vuole darci quell'amore, farci sperimentare quella pace e farci vivere nella gioia quotidianamente. Non è una favola. Dio ha pagato tutto il prezzo che c'era da pagare. Gesù ha sofferto. Gesù si è umiliato affinché noi ottenessimo queste cose. Se non ce le abbiamo, allora è inutile che portiamo avanti una favola, e continuiamo a vivere raccontandoci questa storia che non ha nessun effetto nella nostra vita. Sapete, quando stavo preparando il messaggio per oggi, ho pensato proprio a questo. Ho pensato a quale altra informazione posso dare alla Chiesa sulla nascita di Gesù. Cos'altro posso scavare nella sua parola che ancora la Chiesa non sa della nascita di Gesù, della sua incarnazione, della sua venuta sulla terra. E sapete, la Bibbia è piena. Però ho sentito nel mio cuore un'urgenza. Ho sentito nel mio cuore che darvi altre informazioni non cambierà la vostra vita. Ciò che cambierà la nostra vita è sperimentare l'amore di Gesù, sperimentare la pace di Gesù, sperimentare quella gioia. E com'è possibile farlo? Attraverso una relazione, accettando, ricercando, pregando e ottenendo quello per cui Dio ha mandato il suo figlio. Qualche giorno fa ho letto l'articolo, la storia di un uomo, una storia vera, di un uomo di nome Thomas Martinez, un vagabondo, un senza tetto, una persona che non aveva nulla e che un giorno ha visto arrivare una pattuglia. E questa pattuglia, da questa pattuglia sono usciti dei poliziotti che gli sono andati incontro chiamandolo per nome. Ora lui era un vagabondo, era un senza tetto, qualcosa l'aveva commessa anche. E quindi alla vista di questi poliziotti usciti dalle macchine che gli venivano incontro chiamandolo per nome, Thomas ha fatto quello che istintivamente pensava fosse la cosa più logica e giusta da fare: ha cominciato a correre. Ha corso e si è allontanato da questi poliziotti, non sapendo che questi poliziotti lo cercavano per dargli una notizia e per dirgli che aveva ottenuto un'eredità di ben 6 milioni di dollari. 6 milioni di dollari erano destinati a lui ed erano andati per dargli questa notizia e per dargli l'opportunità di riscattare questa eredità. Thomas non si è mai più trovato. I poliziotti non sono mai riusciti a trovare quest'uomo e questa eredità è rimasta insoluta. Straordinario, è incredibile ed è anche molto triste. Vedete, c'è un'eredità che è a nostra disposizione. Dio ha fatto cose straordinarie. Dio ha mandato il suo figlio per darci una via d'uscita in questa vita. Dio ha mandato il suo figlio affinché noi ottenessimo la salvezza, l'essere tirati letteralmente fuori dalla feccia, dalle tenebre di questa terra, di questo mondo nel quale viviamo, e darci l'opportunità di sperimentare la luce, la gratificazione maggiore, vivere nel vincolo di amore con Lui e di conseguenza ottenere pace nei nostri cuori, pace con Dio, pace con noi stessi, pace anche con gli altri. Questa è l'eredità che Lui ci ha dato e ripetutamente la troviamo in ogni parte della Bibbia. Ma è un'eredità che è dato a noi di afferrare. E quindi io voglio chiederti di nuovo questa sera: stai vivendo questo amore? Stai vivendo l'amore di Dio nel tuo cuore? Stai vivendo il privilegio più grande che un uomo abbia su questa terra, e cioè essere in connessione e in intimità con il suo creatore? Stai vivendo questo amore che è talmente invadente, ingombrante, che ti dà la capacità di amare gli altri anche quando gli altri fanno dei torti, anche quando gli altri ti trattano male? Perché questo è ciò di cui l'apostolo Giovanni parla. E in altri versi lui lo dice molto chiaramente, dice: se uno ha ottenuto l'amore di Dio, lo dimostra amando gli altri. E se uno non riesce ad amare gli altri, questa è evidenza del fatto che non sta vivendo nel vincolo di amore con Dio. Stai vivendo in questo amore? Hai pace nella tua vita? Hai gioia? Oh, a me sta a cuore questa cosa, perché Vedete, anche gli angeli che si sono manifestati ai pastori, l'angelo ha annunciato con queste parole, ha detto: io vi porto la buona notizia. Già parla di qualcosa di positivo, la buona notizia di una grande gioia. Dio è venuto per darci gioia. Dio vuole che tu vivi gioia, gioia anche nel mezzo delle circostanze più difficili, gioia nel lutto. Lui trasforma il lutto in danza, c'è scritto nella parola di Dio. Lui trasforma le situazioni più difficili, dalle quali nessuno di noi può scappare, e anche noi come cristiani non siamo esenti, però trasforma quelle situazioni e circostanze in opportunità per sperimentare il miracolo della gioia di Dio. Una gioia che non è data da quanti soldi hai nel portafoglio o da quanto stai in pace con gli altri e le circostanze girano a tuo favore. No, è una gioia incomprensibile, soprannaturale e miracolosa. E si ottiene quando tu hai relazione con Lui. Infatti c'è un verso che io ho memorizzato a memoria che dice: non angustiatevi di nulla, ma se avete qualcosa... L'ho memorizzato a memoria, però mi sfugge. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamento. E la pace di Dio, aggiunge, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Questi versi ci parlano di relazione. È Dio che ci sta dicendo: vuoi ottenere una gioia soprannaturale, una gioia che prescinde da quelle che sono le circostanze? Allora vieni a me. Allora presenta a me le tue richieste. Allora vivi la preghiera. Dialoga con me. Parlami. Fammi sapere ciò che ti mette ansia, ciò che ti mette preoccupazione. E io ti prometto, ed è una promessa di Dio, che ti do pace. Non promette che risponderà sempre alle nostre richieste in accordo con la nostra volontà, come abbiamo sentito in un messaggio recentemente. Non c'è scritto che Lui interverrà e ogni malattia sparirà all'istante, ogni situazione difficile sarà risolta, ma una cosa farà immediatamente, certamente, è mettere pace nel tuo cuore e nella tua mente. Dio è il Dio di pace. E se c'è una cosa che io voglio fare con voi questa sera è pregare. Perché noi non siamo una chiesa che è qui per essere religiosa. Noi non siamo qui per raccontarci la bella storia e ricordarcela e approfondire le informazioni su questa storia. Noi siamo qui perché vogliamo sperimentare i benefici di questa storia, perché sappiamo che è Dio stesso che vuole questo. Lui non vuole che noi sappiamo bene la storia, Lui vuole che noi sperimentiamo i benefici di questa storia, della sua nascita e della sua venuta. Quindi se riconosci in te stesso che non vivi in questo vincolo di amore con il Creatore, sei nel posto giusto al momento giusto. Se nell'ascoltare le mie parole ti sono venute in mente tante situazioni che non mettono pace nel tuo cuore, e non hai pace nel tuo cuore, sei nel posto giusto al momento giusto. Se riconosci di non avere una gioia soprannaturale, ma sei piuttosto triste o forse addirittura depresso nella tua vita, schiacciato da questa cappa che ti avvolge giornalmente, sei nel posto giusto al momento giusto, perché una preghiera può liberarti da ogni male che c'è nella tua vita, perché Dio è più grande di ogni male che ti affligge. Vogliamo sperimentare la presenza di Dio e il suo intervento sulle nostre vite. Vogliamo richiamare il suo amore. Vogliamo riconciliarci a Lui. Vogliamo chiedere a Lui che ci dia pace e che metta in noi quella gioia soprannaturale. Vogliamo farlo, alziamoci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo cominciare a pregare, vogliamo stare concentrati su di Lui. Lui è in questo luogo e ti vede, Lui ti conosce per nome e tu, Lui sa esattamente qual è la tua storia, qual è la tua vita, quello che stai pensando e quello che stai provando in questo momento. E Lui questa sera ti dice: figlio mio, figlia mia, io ti amo. Io ti amo e voglio il meglio per te. E ho mandato il mio figlio per darti pace. Io voglio pregare prima di tutto per coloro che questa sera riconoscono di essere separati da Dio, di non vivere questa intimità e questa relazione, vorrebbero tanto sperimentare il suo amore e avere un'intima relazione. Forse ce l'avevi e forse da tempo l'hai persa. Siamo qui per pregare per te. Forse queste parole per te erano completamente nuove e forse prima d'ora mai nessuno ti ha detto che puoi vivere una relazione personale, intima e diretta con il tuo creatore. Allora io voglio pregare per te. Se sei qui e dici: sì Mirko, io voglio, desidero riconciliarmi al mio creatore, sperimentare il suo amore nella mia vita, il suo amore che, come hai descritto tu, riempie e mi appaga e mi dà capacità di amare gli altri. Allora se tu sei quella persona, mentre tutti noi abbiamo i nostri occhi chiusi, io ti chiedo di alzare semplicemente la tua mano come segno di arresa e come segno di volontà di riconciliarti al Padre. Grazie, vedo tante mani che si stanno alzando. C'è ancora qualcuno che dice: sì, io voglio vivere nel vincolo dell'amore. Alleluia, grazie Gesù. Grazie per le vostre mani alzate. Potete abbassare. C'è ancora qualcuno che dice: sì, io stasera scelgo, io stasera desidero questo amore nella mia vita. Grazie, grazie, grazie. In tutta la sala ci sono mani che si stanno alzando e questo è meraviglioso. Io voglio guidarti in una preghiera e voglio chiedere a tutta la Chiesa di pregare con me. Vogliamo unirci a queste persone, in modo particolare te che hai alzato questa mano, la tua mano. Ti chiedo di ripetere queste parole come se fossero davvero le parole che tu esprimi a Dio. Io voglio guidarti in questa preghiera per facilitare la tua preghiera, ma sentiti libero di fare la tua preghiera. Ma ripeti con me queste parole stasera. Facciamolo insieme, tutti, ad alta voce. Facciamoci sentire e uniamoci a queste persone. Signore Gesù, io ti invito nel mio cuore. Ti chiedo di perdonare i miei peccati e di riconciliarmi a te. Io voglio vivere una nuova stagione nella quale cammino con te, nella quale sperimento l'intimità con te. Voglio un rapporto e una relazione con te. Grazie Gesù per essere venuto su questa terra e grazie perché io possa avere una relazione con te. Perdonami, cambiami e guidami. Amen. Alleluia. Sì, Padre, ti ringrazio per queste persone, per le loro mani alzate. Quale segno di arresa a te, quale segno di desiderio di riconciliarsi a te. Io intercedo per le loro vite, io prego che ciascuno di loro a partire da questa sera possa beneficiare del dono più grande, del privilegio più grande che è dato all'uomo, quello di vivere una relazione intima e personale con te, la possibilità di affrontare ogni sfida quotidiana con te ed essere perdonato dei propri peccati e vivere salvezza in te. Io benedico queste persone nel nome di Cristo Gesù e chiedo che il male possa allontanarsi da loro e prego che loro possano cominciare a camminare in un nuovo percorso di vita guidato da te, Padre. Alleluia. Amen. Voglio pregare anche per coloro che questa sera desiderano pace. Forse hai fatto già tante preghiere, forse hai già tanto pianto per la pace nella tua vita, nelle tue relazioni, nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, nelle circostanze difficili che stai attraversando. Ma posso dirti una cosa? Questa sera, se sei qui, non è un caso. E se hai ascoltato queste parole, non è un caso. Non darti per vinto, perché questo è esattamente quello che il diavolo vuole. Vuole che tu ti arrendi, vuole che tu ti scoraggi, vuole che la tua amarezza cresca e la tua fede diminuisca. Questa sera è l'opportunità di afferrare l'eredità che Dio ha per te e di vivere la pace completa nella tua vita e reclamare questa pace completa in ogni circostanza, in ogni relazione conflittuale che stai attraversando. E io voglio pregare per te. Se qualcuno qui vuole pace, io ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare affinché la pace di Dio possa scendere nelle nostre vite. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie per queste mani che si alzano. Grazie Padre, perché queste mani rappresentano dei cuori e dei cuori travagliati. E tu oggi vuoi cambiare le cose. Noi lo sappiamo, tu sei reale Gesù. Tu ascolti le nostre preghiere. Tu in questo momento ci stai guardando. In questo momento stai guardando i tuoi figli e stai guardando alle loro circostanze, alle loro situazioni e soprattutto al loro stato d'animo. E io voglio pregare nel nome di Gesù affinché la pace tua, che sorpassa ogni intelligenza, che possa custodire i loro cuori, le loro menti in Cristo Gesù. Io prego che ogni preoccupazione, ogni agitazione, ogni ansia, ogni cosa che mette turbamento nelle vite dei miei fratelli possa allontanarsi da loro. Nel nome di Gesù, la tua pace nel nome di Gesù in queste vite, la tua pace, ora la tua pace Gesù, io chiedo che scenda nei cuori di queste persone mentre loro si arrendono a te, mentre loro arrendono ogni loro problema, mentre loro arrendono ogni preoccupazione, mentre loro arrendono ogni ansia del futuro, ogni paura. La tua pace Gesù, la tua pace che sostituisce tutte queste bugie, la tua pace che sostituisce tutte queste trappole malefiche nelle loro vite, nel nome di Gesù, la tua pace. Alleluia. Alleluia. Sento nel cuore che ci sono persone che hanno ansie e paure per il domani. Ti stai preoccupando per delle cose che stanno davanti a te. Forse hai avuto delle cattive notizie, forse ti è stato prospettato qualcosa di negativo, o forse dal nulla ti è piombata addosso un'angoscia, una paura del tuo futuro, del tuo domani. E sento di dirti questo: la parola di Dio dice che Dio è con te ogni giorno e che Lui ha intenzione di proteggerti e di curarti e di guidarti in ogni nuovo giorno. Lui provvederà a te. Voglio incoraggiarti questa sera ad abbandonare queste preoccupazioni e a pregare questa preghiera dicendo a Dio: il mio domani è nelle tue mani. Ripetilo con me, ripetilo ora e di queste parole: il mio domani Gesù è nelle tue mani. Ripetilo ancora: il mio domani Gesù è nelle tue mani. Amen. La tua pace Gesù. Alleluia, alleluia. Sapete qual è la verità di quello che stiamo sperimentando in questo momento? È che mentre noi sperimentiamo questa riconciliazione, questo tempo di preghiera, in cielo c'è festa. Gli angeli stanno festeggiando perché la Bibbia dice che quando un solo peccatore viene a ravvedimento c'è festa nei cieli. E quindi in questo momento, proprio perché tu ti stai riconciliando a Dio e stai chiedendo il suo intervento nella tua vita, c'è festa nei cieli. E noi abbiamo ragione di festeggiare con gli angeli questa sera, perché Dio è il Dio delle vittorie e Lui ci fa trionfare. Quindi indossa un bel sorriso in questo momento. indossa un bel sorriso e comincia a ringraziare il Signore. E vogliamo riempire questo luogo di ringraziamento, perché non c'è modo migliore per vivere gioia nella nostra vita se non attraverso il ringraziamento. Ringrazia il Signore per la salvezza che hai, ringrazia il Signore per questa serata, ringrazia il Signore per la tua famiglia, alza la tua voce dovunque ti trovi, ringrazialo e lodalo, perché così attiri la gioia di Gesù nella tua vita. Forza, uniamoci al gruppo lode, adoriamo il Signore. Alleluia.